Capitolo 9. Il racconto di Guglielma e Maifreda. Noi, Guglielma e Maifreda, figlie di Dana, siamo madre e figlia spirituali e parliamo insieme poiché le nostre opere sono collegate intimamente. Il mio nome è Guglielma la Boema. 200 anni dopo che ebbi lasciato questo corpo, un monaco certosino si imbatté nella bottega di un droghiere in alcuni fogli di pergamena accartocciati, ricoperti da una scrittura antica. Realizzò che i cartocci dovevano servire per porvi la merce in vendita. Tuttavia si sentì inspiegabilmente e misteriosamente attratto dal contenuto di quei fogli. Così li comprò e portatili nello scriptorium per studiarli, scoprì che contenevano gli atti del mio processo. In qualche modo fuoriusciti dagli archivi della vergognosa trappola che uccideva le donne sapienti. All'epoca in cui vissi, nel Medioevo, le donne che rifiutavano di sottomettersi al dispotismo patriarcale avevano la sola scappatoia del convento. Esse esprimevano il loro bisogno di libertà cercando un rapporto diretto con la divinità, intendo non mediato dagli uomini. Che invece tale rapporto dovesse essere mediato da un uomo, era la teoria sostenuta da uno dei nostri più accaniti detrattori, Tommaso d'Aquino, il quale giustificava l'esclusione delle donne dal sacerdozio con il fatto che, essendo la condizione femminile di sudditanza rispetto a quella maschile, le donne non erano in grado di comprendere o esprimere l'essenza del sacro. La mia visione, invece, che poi chiamarono con l'altisonante nome di Movimento Guglielmita, sosteneva che il rinnovamento della società cristiana sarebbe venuto dal sesso femminile e che sarebbe iniziato da me, Guglielma. Nacque figlia di re all'inizio del 1200 col nome di Vilemina. Il mio paese, la Boemia, era grande e potente ed io sposai un nobile come si conveniva ad una figlia di re. Ma il mondo degli uomini non sa stare senza guerra e fu così che le terre che i miei padri con le armi avevano conquistato, con le armi furono riprese dai loro antichi padroni. La guerra mi rese povera e senza protezione. Ma per fortuna un presentimento mi aveva fatto fuggire anni prima a piedi verso sud con mio figlio. Giunsi a Milano e pensai di farvi solo una sosta. Invece mi fermai lì e cominciai a onorare il vero scopo della mia incarnazione. Avevo più di 50 anni ormai. Mia madre mi aveva dato anche un altro nome, Blascina, che significa benedetta, felice. E sebbene vissi pochi anni e non ebbi mai un momento di pace, fui felice e benedetta perché la dea parlava con la mia voce e si manifestava nel mio corpo. Fui sua, le obbedii ciecamente, come voi, sorelle Brigid e Hildegard. Lei mosse i miei passi, ispirò le mie azioni e mi diede il coraggio di fare ciò che ho fatto e che con le mie sole forze non avrei mai potuto. A quel tempo Milano era una delle città più ricche e popolose d'Europa e si stava in buona compagnia con altri eretici. C'erano i Valdesi, i Catari, Patarini, Albigesi, che cercavano un modo diverso di pregare, una via più mistica, distaccata dal potere e dal possesso materiale, pura e ideale. Per questo Roma era furiosa con l'operosa Mediolanum. A Milano ebbi amici che mi credevano santa e continuarono a credermi tale anche dopo la farsa che fu il mio processo. Essi comprarono per me una casa nelle terre dell'abbazia di Chiaravalle. Attorno agli edifici di pietra che costituivano le abitazioni dei monaci si stendevano i terreni agricoli di proprietà dell'abbazia che producevano grano, fieno, fagioli, vino, miele, uova, latte. All'epoca in cui vissi non erano impedite le comunità religiose femminili. Io però avevo altri progetti e preferii divenire conversa dei cistercensi. Non mi risuonavano la durezza e la falsità della Chiesa di Roma, e nonostante la libertà di movimento di alcuni ordini femminili, Non sentivo di appartenere a nessuna chiesa esistente. Volevo una vita pura e un modo di pregare che venisse dal cuore. Fui ritratta in un affresco con la faccia rossa, come le dame delle tue visioni, sorella Hildegard, rossa come l'ocra che usavano nelle antiche società matrilineari neolitiche per richiamare il sangue mestruale della grande madre quando accoglieva nel suo grembo la sua prole per rigenerarne il corpo. Mi vestivo in modo semplice, con la camicia, la tunica e il mantello marroni, e mi comportavo come una donna qualunque. Mai ostentai la mia discendenza regale. Vissi sola, fino alla morte, ma intorno a me si formò un cerchio di persone amiche e devote, laiche e religiose, donne e uomini di ogni condizione sociale che vedevano in me una guida. Non avevo una scuola né una comunità religiosa, non possedevo né stato sociale né beni, ma di certo non vivevo come una donna di quei tempi. Non ero monaca né moglie. Mi creai un ruolo con la sola forza del mio carattere e con la chiarezza della mia visione. Io sapevo cosa fare e lo feci. I monaci, ben presto, cominciarono a rinnegare il ramo femminile del loro ordine e a rifiutare di gravarsi del peso delle sorelle. Questo creò ovunque tra le donne ribelli all'autorità dei padri comunità femminili laiche in odore di eresia. Per esempio, le donne valdesi potevano predicare come gli uomini, le donne catare potevano essere anche loro perfette e godere di posizioni di rilievo in seno al movimento, poiché l'adesione femminile alle comunità spirituali era la manifestazione della ribellione contro i limiti imposti alle donne da parte della Chiesa Cattolica e della società cristiana. C'erano i priscillianisti, i quali raccontavano che la loro profetessa Priscilla si addormentò e che Joshua andò da lei e dormì con lei, in forma di donna, rivestita di un abito luminoso, e ha posto in me la sapienza, diceva. Ed io, Guglielma, fui percepita come incarnazione di Sofia, il volto femminile divino. L'identificazione tra Sofia e Spirito Santo non era sconosciuta nemmeno in seno alla Chiesa. Era il modo in cui il sistema patriarcale aveva trasformato la figura della madre in una entità maschile, socialmente accettabile. Al tempo in cui vissi nel corpo di Guglielma, l'esperienza religiosa femminile aveva due modi per esprimersi. Una era fatta di stretta povertà, vita comunitaria, ascetica, mortificazioni del corpo, penitenze e digiuni che portavano all'esperienza mistica. L'altra era una via spirituale autonoma, al di fuori della regola, quella che io con le mie seguaci camminammo, come già avevi fatto tu, sorella Hildegard. Una via di grazia e bellezza, decisa a superare la convinzione che soffrire fosse necessario per espiare e arrivare alla purezza. Io predicavo, insegnavo, commentavo le scritture, conducendo tuttavia una vita umile e senza pretese. Ben presto le mie parole e il mio stile di vita conquistarono un gruppo sempre più folto di persone appartenenti ai più diversi strati sociali, inclusi gli stessi monaci dell'abbazia di Chiaravalle. Anche nella tua opera, sorella Hildegard, vi fu un'identificazione tra Sofia e Spirito Santo, e questo è naturale, poiché ciò che veniva chiamato Spirito Santo non era null'altro che una traduzione maschile di una parola femminile. La madre, esistente in tutte le trinità del pianeta, spesso raffigurata come una colomba, simbolo della grande madre babilonese Ishtar o della dea Afrodite, il cui carro è trainato da colombe. La mia buona Maifreda non esitò a dichiarare che io gli ero apparsa nelle sembianze di una colomba, ma Tommaso d'Aquino, il nemico delle donne, aveva decretato che poiché la donna nel processo di procreazione è passiva, non può essere intesa come incarnazione dello Spirito Santo. E quindi, eccoci tutte eretiche. Grazie a noi, figlie della Dea e apostole della Sacra Vulva, al corpo femminile, fino ad allora accettato e tollerato solo in quanto contenitore di feti, veniva restituita la sua magnifica dignità di portatore di vita e quindi speranza di salvezza. I miei devoti mi attribuirono miracoli e stimate, e in effetti io avevo la capacità di guarire, ma soprattutto di recare conforto, come voi, sorelle Brigit e Hildegard, ma non volli mai essere cercata né assillata per questo, poiché non credevo nella malattia, bensì nella trasmutazione. I miei amici mi associavano allo Spirito Santo perché non avrebbero compreso l'arcaico concetto della Grande Madre, a meno che non si parlasse di Miriam, madre di Joshua, ma non era quello il caso. Le coscienze erano molto addormentate e le memorie cellulari talmente oscurate. Ma quello che chiamavano Spirito Santo trasformava le creature dall'interno, senza giudizi o sacrifici. Questa era la beata potenza benefica femminile della dea che essi vedevano incarnata in me. Io non forzavo nessuno, ciascuno comprendeva ciò che poteva, secondo le sue possibilità, e non ebbi mai discepoli o discepoli, ma solo persone amiche e devote. Il mio insegnamento risultava misterioso per le menti imbevute di dottrina cattolica, ma sarebbe stato molto chiaro oggi, dopo le tue riscoperte, sorella Maria. Era la spiritualità femminile neolitica, il culto alla Grande Madre, che allora chiamavano Spirito Santo. Di me si diceva che avrei anche offerto la salvezza a tutti quelli che erano fuori dalla Chiesa Cattolica Romana. Essendo io considerata incarnazione femminile del loro Dio, era una conseguenza logica che attraverso il mio stesso essere donna, pura e salva, potessi trasmettere la cosiddetta salvezza non solo alle donne, considerate abominevoli fonti di peccato per colpa dei padri della Chiesa, ma anche ai non cristiani. E poi, visto che la crocifissione di Joshua si era rivelata inutile, almeno stando a ciò che avevamo davanti agli occhi, ovvero una Chiesa corrotta e un mondo pervertito, sembrava che per forza la via della salvazione dovesse passare attraverso un corpo di donna. Chissà che questa volta non andasse meglio. Ero divina come tutte le creature viventi, figlie della Dea, e offrivo la salvezza ai non cristiani, in quanto non pensavo che la Chiesa, poiché rinnegava la Dea, fosse depositaria di verità. I non cristiani, per me, erano tutti quelli che si rifiutavano di seguire il patriarcato ecclesiastico. Le mie parole volevano svelare quello che il pregiudizio umano aveva fino allora impedito di riconoscere nel piano divino. Volevano dire che il mio corpo di donna avrebbe condotto alla divinità secondo un'altra strada, diversa da quello del corpo di uomo che era stato crocifisso. Io però, per non attirare anatemi su di me da parte della Chiesa ufficiale patriarcale, non incoraggiavo né sostenevo di essere incarnazione divina. Davvero mi consideravo una semplice donna, ancorché risvegliata, non più divina di tutte le donne che riconoscano la Dea dentro di sé. Era il mio caro Andrea a considerarmi divina. Lui, come Folmar per te, sorella Hildegard, e Conlet per te, sorella Brigid, fu il mio sostegno, il mio compagno e la mia controparte nella materia. Durante il processo, le persone interrogate su questo o quel punto dottrinale non si richiamarono a Guglielma, ma all'insegnamento di Andrea Saramita o della suora Maifreda. Tra le mie discepole vi erano molte donne della borghesia, ma anche del popolo, come la sarta Taria o Adelina, la moglie del falegname Stefano da Crimella. Tutti ci frequentavamo in maniera eguale, senza classi sociali o privilegi di casta. La mia era davvero una piccola comunità orizzontale, matrifocale, come quelle dell'antica Europa neolitica, sorella Maria. Capitavo che a tavola un aristocratico sedesse accanto al mercante, al falegname, alla vedova. Ormai vicina a lasciare il corpo, raccomandai alla mia comunità di liberarsi dalle convenzioni sociali e di essere sorelle e fratelli nell'amore e nel rispetto. E come i monaci di Chiaravalle si adoperavano affinché i milanesi superassero gli odi delle fazioni allora dominanti in Milano, quelle dei Visconti e dei Torriani, così io, Guglielma, li mettevo a tavola insieme e mangiando il buon cibo lombardo si componevano nell'amicizia, in nome della Dea, tutti gli attriti politici. A un certo punto, però, la mia piccola comunità e i miei insegnamenti attirarono l'attenzione dell'Inquisizione milanese e io dovetti presentarmi a Sant'Eustorgio. Quella volta non fui condannata, e i monaci di Chiaravalle poterono seguitare a promuovere apertamente il culto della mia santità. Ma nel successivo processo del 1300, nonostante io, Guglielma, avessi già abbandonato il corpo, la maggiore preoccupazione degli inquisitori era di provare che il mio culto era eretico per condannarlo e distruggere alla radice un pensiero che rifiutava il dogma cattolico della sudditanza e impurità delle donne. Quando lasciai il corpo, destinai i miei pochi beni all'abbazia di Chiaravalle, esprimendo il desiderio di essere sepolta nel suo cimitero. Paradossalmente, ebbi due funerali. A causa della guerra con Lodi, che rendeva insicure le campagne a sud di Milano, non fu possibile portare le mie spoglie subito a Chiaravalle. Fu il mio caro Andrea che si occupò di traslarle al loro destino finale, almeno per il momento, nel cimitero dell'abbazia, e furono i miei seguaci di Milano a pagare le onoranze funebri, poiché io non possedevo nemmeno una casa. La mia tomba divenne meta di pellegrinaggi e raduni dei miei fedeli, e i miracoli avvenivano nel luogo della mia sepoltura, provocati dalla semplice e profonda fede di chi li invocava. Guarigioni miracolose, dicevano. Ah, i miracoli che mi furono attribuiti, così come quelli attribuiti a voi, sorelle, Brigitte, Hildegard, non avevano nulla a che fare con Dio, ma con l'enorme forza risanatrice proveniente dalla coscienza femminile risvegliata, la potenza della Dea operante attraverso le nostre mani e la nostra volontà. Un mese dopo essere stato deposto nel cimitero di Chiaravalle, il corpo che fu di Guglielma ricevette la cerimonia a cui venivano sottoposti gli individui in odore di santità. Sotto la direzione di Andrea, il corpo fu disepolto e portato nella chiesa che si trovava nella parte riservata ai frati conversi. Lì fu spogliato, lavato con acqua e vino, rivestito con una camicia di seta ricamata e uno scapolare di lana bianca, come i monaci. Il liquido con cui era stato lavato il corpo venne raccolto e inviato a Milano nelle mani della suora Maifreda. Ma i miei resti non dovevano trovare pace. E infatti, di lì a un ventennio, furono disepolti, riportati a Milano e bruciati sulla pubblica piazza, insieme alla mia portavoce e papessa Maifreda, secondo la sentenza dell'Inquisizione. Però l'affresco che ornava la cella vuota, nella quale erano state ospitate le mie spoglie e nel quale ero stata ritratta con la faccia rossa, non fu distrutto in seguito alla sentenza. Nel colore della mia faccia, rosso come il mestruo rigenerante della Grande Madre, era contenuto il significato segreto della nostra via spirituale. A quell'epoca il colore rosso era associato allo Spirito Santo e in quanto tale accettato dalla liturgia cattolica, ma noi sapevamo che il rosso risaliva indietro nel tempo sino al sacro grembo della Grande Dea Madre, di cui l'ocra rossa era l'antico simbolo e lo Spirito Santo solo un paravento. Andrea Saramita era divenuto il braccio della comunità. A lui erano affidati i soldi del gruppo provenienti dalle offerte delle donne e lui li utilizzava per il culto di Guglielma e le attività comuni. Organizzava le riunioni, i pellegrinaggi, i banchetti che avevano la funzione di riunire tutti gli accoliti. Pensava e spiegava, insegnava e scriveva. La dottrina di Guglielma era diventata tutta la sua vita, sostenuto com'era da sua madre, dalla sorella e dalla figlia. Tutta l'elaborazione teologica della mia dottrina fu opera di Andrea, poiché la sua mente maschile aveva bisogno di una risposta analogica al cristianesimo, ma in chiave femminile. Una mera compensazione in simmetria duale che io non cercavo, poiché io ero nell'unità. Dopo la mia morte fisica, vi furono coloro che, inclusa Maifreda, sostenevano di avermi vista. Si profetizzava la mia risurrezione, al punto che Andrea era talmente sicuro che sarei tornata da farmi cucire un lussuoso vestito. In effetti, io, in quanto sciamana, viaggiavo tra le dimensioni e non avevo difficoltà a materializzarmi in questo o quel luogo di Milano o a visitare i miei amici in sogni e visioni. Anche se non mi serviva di certo un vestito nuovo, perché per farlo. Quello serviva per tenere vivo il ricordo del mio insegnamento, con un linguaggio simbolico che tutti potessero comprendere. Coloro che si definirono Guglielmiti usavano riunirsi a pranzo, ospiti di amici, del movimento o nel monastero di Chiaravalle o anche nella casa delle umiliate di Biassono. I pranzi non badavano alla posizione sociale dei convitati, poiché avevano le caratteristiche di una vera e propria celebrazione eucaristica, rallegrata dalle musiche religiose che Maifreda componeva in onore dello Spirito Santo, ma con esplicito riferimento a me. Ma ora devo dirvi chi è Maifreda. Tra le donne amiche di Guglielma c'erano alcune religiose della casa di Biassono. A quella casa apparteneva anche Maifreda, la donna destinata a prendere il mio posto dopo che lasciai il corpo. Colei che comprese in profondità il mio messaggio e la mia visione e a cui ora lascio la parola perché vi racconti lei stessa il resto della storia. Guglielma spinse avanti dolcemente la sua compagna e chiese un mestolo di infuso caldo che veniva lasciato in una brocca di terracotta vicino alle braci, pronto all'uso. Maifreda era strana, dignitosa tanto da sembrare superba, schiva tanto da sembrare arrogante. La sua voce era fredda e sicura e le sue parole non cercavano di suscitare i nostri sentimenti, bensì volevano raccontare in modo scarno ed efficace cosa avvenne dopo la dipartita di colei che ella venerava come la dea. Io, Maifreda da Pirovano, discendevo da una famiglia dell'antica nobiltà milanese. L'incontro con Guglielma cambiò la mia vita. Riconobbi insegnamenti e memorie antichissime che lentamente si risvegliavano in me e lasciai che le parole e le azioni di Guglielma mi riportassero dentro la dea affinché io potessi servirla con devozione e lucidità. Fu durante uno di quei pranzi che io, Maifreda, benedissi alcune ostie che erano state deposte sul sepolcro di Guglielma e le distribuì ai presenti. In quel momento mi venne talmente naturale quel gesto da non farmi minimamente dubitare di avere diritto a compierlo. I Guglielmiti non vedevano in Guglielma una semplice santa. Il culto della divinità di Guglielma era segreto, celato dietro il culto pubblico della sua santità o sotto la copertura di quello a Santa Caterina di Alessandria, protettrice dei filosofi, che a sua volta adombrava quello della scienziata alessandrina Ipazia. Per mio ordine, le chiese venivano disseminate di immagini di Santa Caterina, mantenute sempre illuminate con candele pagate dalla congrega, e nelle mie prediche io parlavo di Caterina intendendo Guglielma. È opportuno che vi dica qualcosa riguardo all'ordine degli umiliati, il mio ordine, poiché aveva caratteristiche diverse dagli altri. Si formò nell'undicesimo secolo per iniziativa di artigiani della lana che, volendo sottrarsi allo sfruttamento della potente corporazione dei mercanti, si costituirono in associazione religiosa, in quanto agli ordini religiosi era accordata maggiore autonomia e libertà. Le prime case degli umiliati erano sia maschili, sia femminili, sia miste. Erano aperte alla frequentazione dei comuni cittadini e non vi venivano osservate le norme di clausura, silenzio e digiuno per non rallentare il lavoro artigianale della lana. Nella casa delle umiliate o delle signore di Biassono abitavano le suore. Ero entrata nella casa non per vocazione, ma per non dovermi sottomettere come nobildonna Visconti a un matrimonio di convenienza. Per lo stesso motivo rimasi nel convento, che ormai era divenuto la mia casa, e dove potevo agire liberamente, secondo la mia coscienza. Nel Medioevo cristiano, come lo definiscono i libri di storia del tempo attuale, fiorirono movimenti spirituali nuovi e monasteri retti da badesse che esercitavano pieni poteri, come il tuo, a Bingen, sorella Hildegard. Ciò permise a molte donne di ricoprire ruoli che garantivano una certa autonomia e indipendenza dal controllo maschile, di ricevere un'istruzione come quella tradizionalmente riservata agli uomini e di esercitare anche un'autorità secolare che senza prendere i voti non avrebbero mai potuto. La dimensione spirituale era però l'unico spazio libero per le donne e la vita religiosa l'unica dove poter esercitare una qualche forma di autoconsapevolezza. Io, pur non avendo la vocazione, ricevetti la chiamata. Ero lì per obbedire a Guglielma e affiancarla nella sua opera di risveglio delle memorie matrifocali. Quella sì era la mia missione, una missione politica, sociale e anche spirituale, ma non in senso religioso e tantomeno cattolico. La domestica spiritualità pagana della grande madre bussava alla mia coscienza e quando vidi Guglielma per la prima volta mi fu subito chiaro che lei incarnava la visione della dea e che io sarei dovuta diventare la sua papessa finché tutte coloro che erano pronte non si fossero volte nuovamente al benefico volto e al rigenerante grembo della madre. Non ero la superiora delle umiliate e non ero sottoposta ad alcuna autorità. Le mie uniche regole erano quelle che io stessa mi davo, sia dentro sia fuori dal convento, per coprire la vera natura della mia attività di capo spirituale dei Guglielmiti, credenti nella divinità di Guglielma. Non andavo a Chiaravalle, non fui né il ricordo di Guglielma né la sua imitazione, ma la sua portavoce, la sua papessa, e come tale insegnavo e amministravo i sacramenti nella casa di Biassono. La predicazione era pubblica e si svolgeva a volte nell'oratorio, a volte in parlatorio o in infermeria, o anche, quando il tempo lo permetteva, sotto al portico del cortile interno. Tuttavia, per non attirare sguardi ostili, mi guardai bene dal predicare in chiesa, poiché quella funzione era riservata alla gerarchia ecclesiastica maschile. Accanto alla predicazione pubblica, io, la suora Maifreda, svolgevo un'opera di istruzione rivolta principalmente alle donne. Non affermavo pubblicamente che Guglielma fosse lo Spirito Santo, ma solo in forma privata. Le partecipanti agli incontri, che tenevo nella mia camera della casa di Biassono, potevano essere fino a 10 alla volta. Parlavo loro della natura divina di Guglielma e delle nuove idee portate da lei. L'amministrazione dei sacramenti la mascheravo da semplice devozione a Santa Guglielma. Ungevo devoti e malati con il liquido del lavacro del suo corpo e davo la comunione con le ostie che erano state depositate a consacrare sul suo sepolcro di Chiaravalle. Feci appendere nella chiesa della casa di Biassono un dipinto che mostrava tre persone nell'atto di liberare dei prigionieri. In quel dipinto era condensata la dottrina su cui si fondavano la mia missione e la mia autorità, che i Guglielmiti mi riconoscevano, dandomi il titolo di vicaria, poiché per loro io rappresentavo sulla terra il Dio incarnato in Guglielma. Per circa un ventennio fui la voce e il volto sulla terra della dea che Guglielma aveva incarnato. Ma, ahimè, la catastrofe giunse e noi non potemmo sfuggirle. Come sempre, dopo che la profetessa lascia il corpo, la sua opera si sfalda o viene corrotta. Lo abbiamo visto accadere tutte le volte, sorelle. La scintilla che appiccò l'incendio, per noi, fu la leggerezza di una devota troppo loquace a causa della quale fummo denunciati, Andrea ed io, all'Inquisizione. Fummo processati, ma abbiurammo e fummo assolti. Cosicché per un po' tutto continuò come prima. Dopo quel processo, tuttavia, mi feci più cauta. Le riunioni pubbliche diventarono meno frequenti, sebbene le suore mi rimproverassero perché continuavo a incontrarmi con i Guglielmiti. Avevano paura per me e per tutta la casa. A quell'epoca l'Inquisizione perdonava il cristiano caduto in errore se si pentiva e faceva ammenda, ma non perdonava le ricadute. La ricaduta nell'eresia portava a rogo sicuro. Tuttavia la prudenza ci consentì di vivere in pace altri 12 anni, durante i quali nulla cambiò in sostanza, se non che tutto avveniva in modo più discreto. Un giorno, durante un pranzo dove era presente Andrea e altri accoliti maschi, mi presentai inaspettata con altre donne. Entrai in sala da pranzo, sedetti e guardai i presenti negli occhi uno per uno. Proclamai: Nostra Signora mi ha ordinato di dirvi alcune parole che non vi dico volentieri perché ritengo che qui ci siano molti Tommasi increduli. Tuttavia, poiché piace a lei, ve le dirò. Mi ha ordinato di annunciarvi che essa è lo Spirito Santo e sia di me quel che deve essere. Posi il seme della mia fine. Delle donne avevano interrotto un pranzo di uomini per annunciare l'incarnazione di Dio in un corpo di donna. Gli uomini insorsero. Le donne mi credettero subito. E infine venne il momento in cui il Papa, allora regnante, firmò una bolla in cui si condannava una certa setta eretica. La bolla terminava con la condanna della setta e con le disposizioni legali per la sua eliminazione affidata agli inquisitori e all'autorità secolare. Così l'Inquisizione milanese riaprì l'inchiesta sulla congregazione guglielmita e io, in compagnia di alcune sorelle, lasciai la casa di Biassono e mi trasferii nella casa dei Cotica, sostenitori del movimento. A quel punto non pensai più a cautelarmi, anzi la mia attività si intensificò, affiancata da Andrea. Il dado era tratto e io dovevo giocarmi il tutto e per tutto, perché sapevo come sarebbe finita e non avevo molto tempo. Dentro di me, da qualche parte, speravo che saremmo diventate tanto numerose e potenti da sconfiggere chi ci voleva ridurre al silenzio, ma il tempo non era maturo e forse, sorelle mie, quel tempo non verrà mai nella terza dimensione. Comunque, il mio insegnamento divenne più esplicito e presenziai ai banchetti più frequentemente di prima. Fu allora che Andrea cominciò a insinuare che Bonifacio VIII non fosse il vero papa, poiché era stato eletto mentre era ancora vivo, Celestino V. Io appoggiai la sua tesi. Non avevo più paura di danneggiare la casa di Biassono. Quindi uscii allo scoperto, poiché avevo avuto visione che il secondo processo sarebbe stato fatale per tutti noi. Così, il 10 aprile del 1300, giorno di Pasqua, presi la decisione di esercitare la funzione di ministra della Dea nella maniera più grandiosa. In presenza di alcuni fedeli e assistita dai diaconi, indossai gli abiti sacerdotali e celebrai la messa solenne prevista dalla liturgia pasquale, seguendo il rito cattolico ambrosiano. Consacrai l'ostia e impartii la comunione. Quella celebrazione non era niente di più di quello che avevo fatto tante volte durante i banchetti. Era la stessa messa domestica dei primi cristiani che si riunivano in case private per condividere il corpo e il sangue del loro Joshua. Io non avevo in mente di rinnovare la Chiesa in senso morale o spirituale. Volevo solamente che fosse aperto il sacerdozio alle donne e da lì sarebbe venuto il resto. Pochi giorni dopo, a Sant'Eustorgio arrivò una spiata riguardante la messa pasquale ed io fui convocata e interrogata dall'inquisitore per la Lombardia. Iniziava così un nuovo processo ai guglielmiti, il terzo, e questa volta riguardava anche Guglielma per porre fine una volta per tutte al culto della sua santità insieme alla fede nella sua divinità. Andrea fu incarcerato e non poteva comunicare con noi. Io invece ero detenuta in una casa del mio ordine e di conseguenza potevo ricevere e trasmettere rapidamente informazioni e disposizioni sul comportamento da tenere. Naturalmente si fece uso della tortura. Io non cercai di proteggermi, quasi mi consegnai agli aguzzini. Il seme era stato messo per il futuro nell'altra dimensione. Diedi ordine ai miei di mentire nel processo, ma solo per tirare in lungo fino alla fine del 1300, affinché la grande opera venisse compiuta nel nuovo secolo. Mi fu chiesto, pensate un po', se avevo mai buttato nel fuoco croste o avanzi di pane, come se il giudice volesse tentare anche la strada della stregoneria. Io cercai di discolpare le mie consorelle di Biassono, Non volevo morti sulla coscienza. Quella strada era mia e mia soltanto. Era la mia libera scelta e dovevo pagarne il prezzo da sola. La colpevolezza di Andrea fu provata. Ora si trattava di provare che la stessa Guglielma era eretica e che le suore, già inquisite nel 1284, principalmente io, erano ricadute nell'eresia. Inizialmente la mia colpevolezza non fu facile da provare, sia perché i miei seguaci non collaborarono con il tribunale, sia perché c'era di mezzo la famiglia Visconti. Matteo Visconti, mio parente, tentò di ottenere la mia liberazione, ma la sua potenza subì un arresto a causa di famiglie e città rivali a Milano ed egli non ebbe sufficiente potere per farmi uscire dal carcere. Quindi, quando mi presentai all'interrogatorio finale, sapevo che per me era finita. Non chiesi nemmeno la rituale misericordia, volevo proclamare apertamente la verità, mia, non quella messa insieme dagli inquisitori. Solo dichiarando il mio intento e consacrando nel fuoco sciamanico del mio proprio rogo, gli avrei conferito vita. Quando l'inquisitore mi domandò se ero una maestra convinta dell'eresia guglielmita, gli risposi di sì. Gli dissi che quelle cose le avevo insegnate perché ci credevo e volevo che altre ci credessero. Poi mi chiese dove prendevo quella dottrina ed io gli diedi una risposta che nella sua ottusità di carnefice non poté comprendere. Gli risposi che la prendevo dal libero arbitrio. Risultava impossibile ai miei aguzzini credere che una donna potesse possedere una cosa come il libero arbitrio. Inizialmente gli elementi raccolti contro Guglielma non furono sufficienti a condannarla. Non riuscirono a provare che lei si era definita Spirito Santo, il che avrebbe portato all'accusa di eresia. Le testimonianze sul culto organizzato intorno a lei dai monaci mostravano solamente che il culto in sé era tutto sommato ortodosso. Tutte le testimonianze sulla vita e le parole di Guglielma deponevano a favore della sua santità. Ma quando risultò che la fede nella sua divinità aveva avuto inizio mentre lei era ancora in vita, questo fu l'appiglio per dichiararla finalmente eretica. Andrea fu bruciato in settembre. Io, Maifreda, fui condannata all'estremo supplizio del fuoco insieme ai resti di Guglielma. La sentenza di morte contro di me fu eseguita dopo la fine del processo, nel 1301. Maifreda si leccò le labbra secche, fece un passo indietro e alzò le braccia verso il sole che ormai era visibile, poi le abbassò verso la terra e si accucciò sui calcagni come per congiungere nel corpo della dea le due forze cosmiche che originano la dualità, la femmina e il maschio. Intanto Guglielma riprese a raccontare. Dopo che il gruppo dei devoti fu disperso, si formò intorno a me una leggenda che sostituì la verità storica. Si diceva che intorno al 1300 era vissuta a Milano una femmina eretica di nome Guglielmina, che fingeva di essere religiosa e santa. Viveva insieme a un certo Andrea Saramita e i due, protetti da una simulata bontà, tenevano dalle parti di Porta Nuova in Milano una sinagoga sotterranea nella quale riunivano nottetempo fanciulle, donne maritate, vedove. Per volontà di Guglielmina, tutte costoro portavano la chierica come se avessero ricevuto l'ordinazione sacra. Ai convegni notturni si recavano inoltre giovani uomini e adulti travestiti da religiosi. Donne e uomini cominciavano le loro riunioni pregando davanti a un altare, quindi gridavano «Congiungiamoci! Congiungiamoci!» e schermavano i lumi. E seguiva un'orgia sessuale. Questo tramandarono di me i posteri. Mi attribuirono le peggiori nefandezze a sfondo sessuale, come era ovvio che fosse, dato che chi mi accusava era il mondo degli uomini. La leggenda che falsificava la mia storia, tuttavia, non fu un parto spontaneo della fantasia popolare, bensì fu creata appositamente per il popolo da una mente lucida e spietata. Il ruolo dei Visconti venne alterato, le mie origini regali cancellate, la presenza di religiosi trasformata in un travestimento. Chi elaborò la leggenda doveva evitare di seminare scandalo tra i religiosi e di trascinare nel fango il nome dei nobili. La leggenda pescò la storia della tonsura delle donne e delle riunioni notturne a scopi sessuali dalla bolla di Bonifacio VIII. La vicenda di Guglielma, venerata per decenni come santa, e dei suoi seguaci, tutti bravi e onesti cittadini, non poteva essere taciuta. Bisognava dunque reinventarla in modo da render conto dei fatti, ma manipolandoli in modo da ricavarne un monito contro gli eretici. Raccontare che Guglielma era stata messa sul rogo perché affermava di essere lo Spirito Santo incarnato in una donna era come indicare alla mente femminile questioni su cui non si voleva che le donne portassero l'attenzione. Mentre la storia delle orge sessuali era pienamente in sintonia con il gusto popolare. La storia di Guglielma divenne quella di una donna che sembrava diversa, ma in realtà era come e anche peggio delle altre. Una storiaccia di imbrogli femminili smascherati dall'uomo, la quale passava in modo sottile alle donne un messaggio di sconfitta per tutte coloro che volevano in qualche modo uscire dalle convenzioni. Ne scoraggiava persino il tentativo. Contestualmente si diffuse anche un'altra leggenda, diametralmente opposta, quella della Vergine Guglielma, che sarebbe Dio incarnato per la redenzione delle donne. Le due leggende, quella delle orge sessuali e quella della Vergine Salvatrice, entrambe mirate a ribadire la colpevolezza femminile, avevano un punto in comune che è l'occultamento di Maifreda. Gli inquisitori domenicani non volevano che si conservasse a Milano l'immagine di una prestigiosa seguace dell'eretica boema. Bruciata Maifreda, io fui divisa in due. Da una parte il sesso mercificato, il corpo di donna svalutato, come d'abitudine. Dall'altra l'irraggiungibile vetta della castità salvifica. Mi toccò la beffa di continuare a vivere una vuota menzogna nella leggenda. Finché, circa 350 anni dopo, uno studioso milanese esaminò il processo dei Guglielmiti nel codice dell'Ambrosiana e, dalla lettura degli atti, evinse che il legame carnale tra me e Andrea Saramita, i convegni e le orge sessuali notturne nella grotta, erano tutte frottole. Costui, a cui dobbiamo il riscatto della nostra memoria infangata per soli 3 secoli e mezzo, e non 2 millenni, come la sorella Miriam Magdal, espose in pochi punti la dottrina guglielmita ricavata dagli interrogatori degli inquisiti, che Guglielma è lo Spirito Santo incarnato nel sesso femminile, che ha lasciato quale sua vicaria in terra suor Maifreda nell'ordine degli umiliati, che Maifreda, vicaria di Guglielma, deve celebrare messa e predicare a Milano e poi a Roma, e qui insediarsi nella sede apostolica, che suor Maifreda deve essere la vera papessa e avere l'autorità di un vero papa, perché, essendo Guglielma lo Spirito Santo in forma di donna, Maifreda deve essere la sua vicaria in forma di donna, che il papa e i cardinali devono cedere la loro autorità a Maifreda, la quale deve battezzare gli ebrei e i musulmani e tutti gli altri popoli che sono fuori dalla Chiesa romana, che i Vangeli, che ora hanno valore, insieme alla loro dottrina, siano sostituiti dai Vangeli che verranno scritti da 4 donne sapienti, scelte da Guglielma, quando Maifreda sarà insediata pacificamente e solidamente nella sede apostolica romana. Ovviamente, l'autore seicentesco non era in grado di percepire il punto fondamentale della mia dottrina, riportare nel mondo l'idea di un rapporto diretto tra la divinità e la donna creata, secondo le scritture, insieme e non dall'uomo, maschio e femmina li fece. Per riscattare la mia immagine, egli creò una sorta di palinsesto in cui si confrontavano analogicamente i dogmi cristiani con quelli guglielmiti. Io però non mi posi mai accanto a Joshua, né cercai mai di soppiantarlo, perché non era questa la mia motivazione. La mia forza era nuova e diversa, incomprensibile ai più. Quante speculazioni furono fatte sulla mia presunta dottrina dopo il rogo. Chiacchiere chiacchiere senza fine, se io fossi o non fossi incarnazione di questo o di quello. Io sono stata una semplice donna, come voi, sorelle mie, risvegliata e consapevole della forza divina della Dea, che allora chiamai Spirito Santo per farmi capire dalla gente del tempo, incarnata in me. La nuova via di salvezza che predicavo era molto semplice: un ruolo attivo del sesso femminile, il superamento del sacrificio cruento del Dio Figlio, che a causa dei nostri peccati si è sacrificato in obbedienza al Dio Padre, e la salvezza dei non cristiani che Maifreda avrebbe battezzati una volta insediata a Roma. Il sacrificio cruento nella sua abiezione mi ripugnava ed io lo rinnegavo. Cercavo di distogliere i miei dall'inutile proposito di ricavare la salvezza dallo spargimento di sangue, la giustizia dalla mortificazione, la salvezza dal sacrificio del povero innocente capro espiatorio. Maifreda aveva segretamente esercitato il ministero sacro con i pieni poteri che ogni cattolico riconosce ai vescovi nell'esercizio delle loro funzioni di governo e amministrazione dei sacramenti. Andrea non mise mai in dubbio che sarebbe stata Maifreda la mia erede, accettando così pienamente una impostazione matrifocale. Una nuova era, dove la vita, tanto spirituale come quotidiana, fosse guidata dalle donne. Donne che mi seguivano, poiché io con la mia opera e il mio esempio restituivo loro la dignità. Parlavo del mio corpo come luogo di una passione senza sacrifici cruenti, ma semplicemente per il fatto di essere un corpo femminile. La passione causata dalla differenza sessuale, che di per sé da millenni procurava sofferenze e abusi a tutte le donne. Ora, incarnandosi in un corpo femminile, Dio finalmente rispettava il suo progetto originario. Dio creò l'essere umano a sua immagine. Dio li creò uomo e donna. La discriminazione sessuale non era più una conseguenza del peccato originale. La mortificazione delle donne, abbondantemente nutrita dalla stessa tradizione cristiana, non era più giustificata. Cancellato l'odio per la creatura di sesso femminile che l'uomo cristiano amplificava a causa della sua stessa aspirazione a identificarsi col figlio maschio del Dio maschio. Ancora oggi le creature umane che vengono al mondo con un corpo femminile devono giustificarlo fino all'automortificazione che legittimi la loro esistenza di maschi mancati. Questa è la passione che Joshua non visse e che io, Guglielma, offrivo alle mie sorelle per poterla, al fine, superare. Una perfetta simmetria alchemica che Andrea e Maifreda compresero e seminarono insieme a me, finché il seme, ormai maturo, non fosse pronto per aprirsi. Nell'incontro conclusivo con Maifreda, nonostante lei volesse rispondere secondo verità, l'inquisitore non le domandò nulla riguardo il suo vicariato, non sapendo come affrontare l'ignota divinità che lei rappresentava davanti a uomini e donne, evitò di affrontare la ragione stessa per la quale Maifreda si avviava alla più orribile delle fini: morire dentro un mucchio di fascine in fiamme. Questo rischio lei lo aveva messo in conto dal momento in cui decise di fare di me il centro della sua vita. Maifreda affermava letteralmente che io ero Dio. A un certo punto abbandonò il suo solito comportamento prudente e smise di tentare di salvare se stessa e la congrega. Diceva spesso che ciò che faceva le era stato ordinato da me, sottolineando sempre il rapporto gerarchico. Maifreda, seconda a Guglielma, ma prima fra i Guglielmiti, era la mia vicaria, con tutti gli onori e gli oneri spettanti a chi sedeva in rappresentanza di un dio. Andrea e Maifreda non furono mai in contrasto tra loro. Trattandosi di una chiesa femminile, egli riconobbe in lei l'ovvia erede e rappresentante di Guglielma. La mia vicaria non poteva che essere una donna. A Maifreda lui cedeva il primo posto. Tutto il suo progetto di rinnovamento spirituale della chiesa, che a quel tempo era auspicata anche da altri movimenti come quello del monaco Gioacchino da Fiore, poggiava sulla dignità e sui poteri della mia papessa. Benché fosse un uomo, fece sua fino a morire per essa l'idea di cambiare la società cristiana promuovendo la grandezza femminile, come predicavano anche le comunità del libero spirito. C'era una madre divina che, vivendo lei stessa nella gioia, senza infliggere tormenti al suo corpo, comunicava in maniera informale un messaggio di uguaglianza e di gioia. Una madre che sa compiere miracoli, ma respinge coloro che glieli chiedono. Io sempre respinsi l'idea di una nascita divina, sempre sostenni di essere figlia di un uomo e di una donna, di essere fatta di carne e ossa e di aver avuto un figlio. Negai sempre di essere incarnazione dello Spirito Santo, ma vissi come la dea che era in me. Maifreda prese la mano di Guglielma e si rivolse di nuovo alle sorelle per concludere il suo racconto. Venni al mondo in una famiglia aristocratica. Ero forte, determinata e orgogliosa. Mi feci suora, ma non avevo un carattere contemplativo. Io non volevo sposarmi, non volevo vivere in uno stato in cui il mio essere donna fosse una condizione di inferiorità. Il mio sesso era l'unico ostacolo che mi avrebbe impedito di dimostrare grandezza. Ero condannata dalla filosofia aristotelica e dalla medicina galenica del tempo, secondo cui l'apparato riproduttivo femminile era immondo e imperfetto, il seme maschile l'unico principio creatore nell'atto sessuale. Così io feci di Guglielma il mio dio, per cancellare l'unico immodificabile svantaggio sociale che giocava contro di me, la mia femminilità. Volli rovesciare il destino, tanto non avevo nulla da perdere. Se dovevo essere seconda per il fatto di essere una donna, ebbene, non potevo ammettere altro superiore che un dio femmina. In Guglielma, che aveva sublimato l'essenza femminile senza sentirsene imbarazzata, io trovai l'immagine divina. Ero una signora, ferita dalla condanna biologica ad essere una pupattola, un soprammobile, una merce di scambio per ottenere benefici materiali attraverso contratti matrimoniali. Io non mi sarei piegata, io avrei lottato. Guglielma, con la sua tranquilla regalità e la sua serena consapevolezza di sé e della dea, guarì le mie ferite all'orgoglio e in cambio io mi consegnai completamente a lei con tutto ciò che ero e possedevo. Con la mia esistenza avrei proclamata la sua magnifica umiltà, la sua scelta di essere una regina senza bisogno di una corona per legittimarla. La sua opera di riunione del suo gregge, con parole d'amore e di uguaglianza, pur essendo donna. Questo intesi quando pronunciai le parole sia di me ciò che deve essere. Dichiarai Guglielma lo Spirito Santo e me stessa sua papessa. Fui accettata per proclamazione popolare, e dunque legittima secondo gli antichi canoni della Chiesa, da parte del popolo milanese, il quale invece considerava illegittimo il Papa Bonifacio VIII. Morii, ma mentre soffocavo tra le fiamme, consegnai alla storia il diritto delle donne al sacerdozio e trasferii l'immagine vivente della dea nella dimensione parallela. Grazie alla mia consacrazione nel fuoco, la chiesa di tradizione guglielmita è divenuta una realtà capace di darsi un'organizzazione gerarchica con un papa donna e delle donne cardinali accettate da Roma. Nel presente esiste la chiesa che porta il nome di Guglielma, dove le donne continuano ad essere sacerdotesse e papesse, sebbene sotto copertura cattolica. Purtroppo, dopo la nostra uscita dal corpo, come pure è successo a voi, sorelle Brigitte e Hildegard, le nostre comunità spirituali, un tempo definite eresie femministe, sono state assimilate dalla Chiesa di Roma, la quale, in cambio dell'accettazione ufficiale tra le congreghe cattoliche, ha snaturato il nostro messaggio di sorellanza e uguaglianza e le ha trasformate in banali sue appendici, dove viene predicato, con la stessa impostazione gerarchica, lo stesso messaggio cattolico-romano da preti donne. Nulla è rimasto della nostra volontà originaria di cambiamento, di vita comunitaria, di condivisione dei beni e di risveglio della coscienza della Grande Madre, delle nostre esperienze sciamaniche e visionarie, della nostra attitudine alla bellezza e alla rigenerazione. Ai noi, ancora una volta, l'opera delle donne nel mondo materiale non si conserva oltre la loro uscita dal corpo. Così noi, Guglielma e Maifreda, figlie di Dana, coloro che sfidarono la Chiesa degli uomini, in questo sacro cerchio abbiamo parlato.